Il punto di Stefano Folli. Le polemiche violente sulla legge di stabilità, molte erano prevedibili, alcune sono figlie dei punti deboli del provvedimento. Ma quanto peso ha la frattura all'interno del partito berlusconiano negli sferzanti giudizi provenienti dall'ala del PDL più vicina all'ex premier? I fedeli di Berlusconi, a cominciare da Fitto, impegnati in una strenua battaglia contro il traditore Alfano, si muovono e agiscono ormai quasi come un partito di opposizione. Invece sono ancora, non sappiamo per quanto tempo, un solo partito e sono al governo insieme. Ecco, il vero rischio è che la finanziaria sia stravolta in Parlamento come conseguenza diretta delle lotte interne ai partiti. Abbiamo detto del PDL, ma il PD alla vigilia di scelte difficili potrebbe non essere da meno. È una legge di stabilità stravolta e molto peggio di una mediocre legge di stabilità.